tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale. Su Rai 2 del 21 giugno, la rubrica Sorgente di Vita ci ricorda le condizioni miserrime e disperate degli ebrei chiusi nel ghetto sul Tevere fino al 20 settembre 1870. Pare che per un certo periodo potessero bere solo l'acqua inquinata del Tevere. Dalla rivista Sicilia Libertaria, l'anonimo Fra Dubbioso così scrive: grandi novità, i preti non possono più toccare le fanciulle, lo prescrivono i DPCM del governo italiano, che definiscono rigide norme. Noi che conosciamo a fondo i vizi della casta clericale, non possiamo che gioire nel vedere la gente mantenere le distanze da parroci e predicatori, e anche la manipolazione del corpo di Cristo in forma di ostia, con tanto di guanto azzurro, non può che farci riflettere su come anche quell'oggetto consacrato possa essere portatore di insidie e come se lo è. Dalla Francia, indagato padre Finet per azioni gravissime e devianti su giovani donne durante le confessioni, 7 maggio 2020. Dalla Valcamonica, arrestato padre Zanotti, gestore del convento di Sovere, associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Praticamente falsificava, truffava la regione per incassare più soldi dalla sua cooperativa che assisteva gli immigrati. 23 giugno 2020, indagato parroco di Montecchio, Reggio Emilia, per omicidio colposo in casa di riposo, ben 18 ricoverati morti. Arrestato l'ex assessore filocrocifissi clerico fascista Massari a Milano per stupro. Qui la rivista Cronaca Vera ci riporta una sua foto con la Moratti, di nefasta memoria. Calendario del Duce, siamo sempre al comune di Milano, fascisti di ieri e di oggi, questo clerico fascista che esponeva il calendario di Mussolini in ufficio, è arrestato per delle truffe colossali. Abbiamo poi Ratzinger, noto fascistone, che militava nella Hitlerjugend e nato a pochi chilometri da dove è nato Hitler, col quale condivideva molte idee. E cosa è successo? Che a nostre spese, con un aereo militare italiano, si è fatto portare in Germania a trovare suo fratello, accompagnato da un'equipe medica. Le suore picchiano i bimbi sulle parti intime all'asilo di Caserta, condannate 3 religiose e la madre superiora. Dalla Stampa, 26 maggio 2020. Scandali vaticani, la magistratura svizzera sequestra i conti di Monsignor Perlasca e di tutti gli indagati dell'inchiesta sul Palazzo di Londra. Prete, se lo conosci, lo eviti. Dal mio dizionario anticlericale, autopunizione. Pratica masochistica isterica che induce i mistici a torturarsi continuamente. Autoritarismo inquisitorio è quello della Chiesa Cattolica, che espelle e cerca di reprimere il libero pensiero. Passiamo alle notizie storiche cronachistiche. 22 giugno 1633. 7 cardinali inquisitori firmano la sentenza di condanna di Galileo come eretico difensore della dottrina copernicana. 23 giugno 1566, cerimonia inquisitoriale nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma, limitrofa al convento domenicano, 8 eretici condannati a morte. 24 giugno 2018, foto e film pedoporno, Monsignor Carlo Capella condannato a 5 anni dal Tribunale Vaticano. 25 giugno 1923, 40 noti personaggi del laicato cattolico si schierano apertamente col governo Mussolini, il clerico fascismo. 26 giugno 2018, diocesi di Nîmes in Francia, licenziato un professore che aveva denunciato uno stupro avvenuto in una scuola cattolica. 27 giugno 2015, inchiesta ospedale Bambin Gesù, il cardinal Versaldi accusato di malversazione. 28 giugno 2016, fulmine anticlericale incendia la chiesetta di Loreto a Montan, in provincia di Bolzano. Abbasso il Papa, abbasso il Vaticano. Per informazioni, consigli, chiamatemi pure al 331-730-2874. Poesiola anticlericale di anonimo poeta inizio secolo XX. Il prete sull'altare con le natiche al pubblico minchione, ora qua ora la pare, vada cercando la persa ragione. Per non essere udito e meno ancora capito, parla basso e latino. O cos'è dunque la messa? Una corbelleria qualunque. Saluti e auguri alla prossima puntata dal Circolo Giordano Bruno. www.giordanobrunomi.wordpress.com. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare Gesù. Chiodalo bene, chiodalo forte, che non ci viene più giù. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare, che andiamo a inchiodare, che andiamo a inchiodare Gesù. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Wombat, qui è Lorenzo Guagnano. Sono stato invitato dal Circolo Giordano Bruno di Milano a parlarvi di qualche scottante argomento anticlericale. Forse basterà rivelarvi che la prima condanna della Chiesa sembra essere contenuta già nella Bibbia. Alludo, in particolare, all'Apocalisse di Giovanni. Questo testo, l'Apocalisse, sembrerebbe sorprendentemente profetizzare la nascita, la corruzione e la rovina della Chiesa di Roma. Essa, la Chiesa, appare simboleggiata da una donna scandalosa, la Babilonia, di cui si legge che è la grande puttana che si è prostituita ai re e ai mercanti della terra. Detto in altri termini, questa donna si sarebbe unita e compromessa con il potere politico e con la ricchezza finanziaria, esattamente come la Chiesa. Di conseguenza, la Babilonia appare ammantata di porpora, come di porpora il mantello papale, ed è adorna d'oro e di pietre preziose e perle, oggetti che, come è risaputo, abbondano nell'alto clero. Ma ciò che restringe la somiglianza è che questa donna è ritratta con un calice d'oro nella mano che ricorda fortemente il calice eucaristico. Da questo calice, infatti, si legge che la donna si ubriaca del sangue dei santi e dei martiri di Gesù, così come dal calice liturgico i sacerdoti, come è risaputo, bevono il vino che rappresenterebbe il sangue di Cristo. Ma la teofagia viene ribaltata dall'avere un carattere santificante all'assumere un carattere dissacrante e blasfemo, proprio a partire dalla considerazione che con il vino ci si può anche ubriacare. E che cosa significa ubriacarsi del vino? Significa approfittarsi di ciò che è sacro o almeno che è dichiarato tale, utilizzandolo per ottenere in modo del tutto ipocrita i fini opposti a questo sacro. Ma il paragone si restringe ulteriormente laddove si legge che la Babilonia meretrice è una città-stato, la grande città che regna sui re della terra e su tutti i popoli e le nazioni. E questa città ha anche una localizzazione precisa, siede su un corso d'acqua, su un fiume plausibilmente. È una possibile allusione al Tevere, al Vaticano lungo il Tevere? Sta di fatto che la Babilonia meretrice cavalca una bestia dalle sette corna, come sette sono anche i colli di Roma. Secondo San Giovanni, Dio si ricorderà di lei, della Babilonia chiesa, in dies illa in quel giorno, e la condannerà, bruciandola in fuoco e fiamma. Cito: «Voce di sposo e di sposa non si udrà più in te, che i tuoi mercanti erano i grandi della terra, che nella tua droga furono illuse tutte le genti. In lei fu trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti coloro che furono sacrificati sulla terra». Ora, Un'interpretazione per certi versi simile dell'Apocalisse era stata data tra 200 e 300 anche dalla corrente cosiddetta spirituale dell'ordine francescano, ossia quella parte dell'ordine fedele in modo intransigente all'ideale di povertà, così come è stato propugnato da San Francesco e dal messaggio evangelico, e che perciò e solo perciò meritò la condanna e la persecuzione da parte della Chiesa. In particolare, ricordiamo che Papa Giovanni XXII incaricò l'Inquisizione di perseguitare gli ereticissimi fraticelli spirituali, rei di non essersi ridotti all'obbedienza del Papa e degli interessi della Chiesa. Accadde allora che 5 spirituali vennero consegnati all'inquisitore di Marsiglia, processati, e 4 di loro arsi vivi sul rogo a Marsiglia il 6 maggio 1318. Seguirono subito dopo altre condanne. Il 14 ottobre 1319 un processo contro i Beghini, sostenitori laici degli spirituali, si concludeva ugualmente con il rogo. A Narbona nel 1321-22 incontrarono la stessa sorte 21 tra uomini e donne. I processi si trascinarono finché ben 81 fedeli furono condannati al rogo nella loro lotta alla corruzione del clero. Essi non potevano che apparire che come quei martiri sacrificati già profetizzati in Apocalisse, e la Chiesa non poteva che essere ai loro occhi che quella Babilonia, cavallo della bestia, già un tempo associata alle persecuzioni dell'impero romano. L'identificazione della Babilonia con la Chiesa carnale si deve per primo al francescano Pier di Giovanni Olivi, seguito subito dopo da Ubertino da Casale. Ebbene, in modo più radicale, Ubertino riconobbe l'anticristo, l'anticristo mistico dell'Olivi in un papa eretico, di volta in volta ora Bonifacio VIII, ora Benedetto XI, ora Giovanni XXII. Gli studi di Raoul Manselli hanno mostrato come lo stesso Dante, pur prendendo le distanze da Ubertino, fosse un lettore, un estimatore, un seguace dell'Olivi. Influenza che si deve alla frequentazione dei francescani presso il convento di Santa Croce a Firenze. E certo, questa influenza non è mai stata dichiarata dal poeta, ma appare appena suggerita nella commedia durante l'esperienza dell'esilio, quell'esilio che lo avrebbe condotto a concludere che, testuali parole, il mondo è fatto reo. E possiamo immaginare noi, soprattutto per colpa della Chiesa. Nel condannare il Papa Niccolò III, Dante sembra recuperare l'identificazione della Babilonia con la Chiesa carnale. Cito: «Colei che siede sovra l'acque, puttaneggiar coregia a lui fu vista, quella che con le 7 teste nacque, e dalle 10 corna ebbe argomento finché virtute al suo marito piacque. Fatto v'avete di odoro e d'argento, e ch'altro è da voi all'idolatre, se non ch'egli uno, e voi ne orate 100?» Un caro saluto da Bergamo,